Buongiorno fratelli e sorelle, anche quest'oggi le pillole del Faulisi vi colpiranno e vi faranno stare forse un pochino meglio. Perché? Perché la musica che manda in onda il Faulisi, il rock and roll e il country e la roots music in generale, è musica che trasmette positività al 100%. E quest'oggi voglio, innanzitutto vi faccio una domanda: è da attribuire al country e al blues la nascita del rock and roll? Se la risposta è sì, allora siete d'accordo con me e quindi possiamo tranquillamente andare ad ascoltarci un pezzo rock and roll eseguito, pensate, da una star della country music di oggi, tal Alan Jackson, che è sempre lì in alto in cima alle classifiche di Billboard in quanto a country music. E il pezzo è un pezzo naturalmente degli anni 50, come dicevo, dal repertorio del mitico Eddie Cochran. Magari la conoscete, ma sì che la conoscete, è Summertime Blues. Just to try and earn a dollar. Every time I call my baby to try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called the congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. The summertime blues. No, there ain't no cure for the summertime blues. Difficile dire qual è il meglio. È meglio questa, è meglio l'originale, è meglio la versione degli Who, ma quante ne hanno fate? E anche gli Stray Cats, Brian Setzer ne ha fatto una versione eccezionale di questa Summertime Blues, un pezzo che comunque lo si faccia viene fuori bene. Perché è un pezzo veramente un'icona della storia del rock. Summertime Blues è quello che si ascolta, questo è il genere, questo è il tenore, ciò che si ascolta lunedì, martedì, giovedì e venerdì sulle frequenze di Rock FM alle 23 con Good Rocking Tonight e Country Skyline. Maurizio Faulisi vi abbraccia e vi bacia tutti quanti.